Quando tu passi alla mattina, fai tanti cuori di sveglia, sembri una rosa mattutina, che il primo sole fa sbocciar. Per il tuo sorriso di bambina, senti tante bocche sospirar. Popolanella, popolanella mia, ti voglio amare perché l'amore sei solo tu. Popolanella, tu sei la stella mia che mi incatena e m'appassiona ancora di più. Vorrei con te sognar la bellezza della vita, vorrei l'ingenuità della tua semplicità. Popolanella, popolanella mia, ti voglio amare perché l'amore sei solo tu. Mentre la notte addormentata sogni col semplice tuo cuor una casetta innamorata, culla dei baci e dell'amor. Vola il tuo balcon la serenata e nell'ombra ti ripete ancor. Popolanella, popolanella mia, ti voglio amare perché l'amore sei solo tu. Popolanella, tu sei la stella mia che mi incatena e m'appassiona ancora di più. Vorrei con te sognar le bellezze della vita, vorrei l'ingenuità della tua semplicità. Popolanella, popolanella mia, ti voglio amare perché l'amore sei solo tu.